Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 22 febbraio, io sono Alessandro Albana e per la puntata numero 19 Bologna e dintorni torna a occuparsi del conflitto in Palestina. In questi mesi diverse e molto importanti sono state le notizie e gli sviluppi del conflitto iniziato a ottobre del 2023. A metà di gennaio di quest'anno è entrato finalmente in vigore il cessate il fuoco tra Hamas e il governo israeliano. Il cessate il fuoco, la tregua, dovrebbe avere, secondo le intenzioni, una durata di 42 giorni. Sempre in queste settimane abbiamo assistito al rilascio degli ostaggi grazie all'accordo tra Hamas e Israele, rilascio di ostaggi da parte di Hamas e al rilascio alla liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi da parte di Israele. Uno dei risvolti più tragici di questo processo lo abbiamo registrato in questi giorni con la restituzione da parte di Hamas di tre cadaveri di una famiglia, la famiglia Bibas, cadaveri che sono di due bambini della famiglia di 4 e 10 anni e della madre. E intanto restano ancora detenuti nelle prigioni di Hamas 60 ostaggi israeliani. Intanto si è fatta più tesa la situazione in Cisgiordania, l'altro territorio della Palestina. Il New York Times ha rivelato che oltre 40.000 palestinesi sono stati evacuati dalle loro case in Cisgiordania, in quella che è stata definita, sembra essere, il più grande dislocamento, la più grande evacuazione di palestinesi della Cisgiordania nella storia. Ancora notizia di questi giorni è il ritiro da parte israeliana delle proprie postazioni militari, quindi delle proprie truppe dal Libano del Sud. Israele però mantiene la presenza delle proprie forze di difesa in 5 luoghi, in 5 postazioni lungo il confine in territorio libanese. E intanto, dopo l'insediamento della Casa Bianca, Donald Trump dalla fine di gennaio non ha fatto mancare la sua voce. Gli Stati Uniti, la diplomazia statunitense si è mossa con risvolti piuttosto critici e significativi. La proposta di Trump, da qualcuno definita bizzarra ma ben poco divertente, è stata quella di evacuare i palestinesi dalla striscia di Gaza per trasformare successivamente la striscia in una sorta di resort sul Mediterraneo. Nelle dichiarazioni di Trump, i palestinesi evacuati dalla striscia dovrebbero essere ricollocati in paesi come la Giordania e l'Egitto. La Giordania ha già detto di non essere assolutamente d'accordo, di non prendere neanche in considerazione l'ipotesi, ma la proposta di Trump resta ancora sul tavolo. Per cercare di districarci nel quadro degli sviluppi recenti del conflitto in Palestina, vi chiedo di aspettare ancora qualche minuto e di risentirci dopo una breve pausa musicale. Let's go for Bologna e Black Veils con il nuovo singolo Gaslight. Come anticipato, oggi torniamo a occuparci di Palestina, perché in questi mesi le novità non sono mancate, ma le ragioni per cui guardare a quanto sta accadendo con inquietudine non sono per questo venute meno. Per approfondire gli sviluppi in corso siamo in collegamento con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Buongiorno Riccardo e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Dunque Riccardo, da più di un mese è in vigore il cessate il fuoco nella striscia di Gaza, lo dicevamo, qual è la situazione sul campo? È una situazione che resta comunque fragile, perché se è vero che nelle scorse settimane non sono più cadute bombe come nei 15 mesi precedenti, c'è una situazione umanitaria che resta disastrosa. Ci sono tonnellate di macerie tre volte superiori, per dare un'idea, a quelle della città di Dresda nella seconda guerra mondiale, completamente rasa al suolo. Le condizioni di vita restano invivibili e c'è sempre il rischio che un passo falso dell'una o dell'altra parte, o un passo percepito come falso dall'una o dall'altra parte, possa riaccendere di nuovo le ostilità, e questo sarebbe naturalmente per la popolazione della striscia di Gaza, che sta tornando per un fatto affettivo, oltre che politico, sulle sue macerie, sarebbe di una gravità senza precedenti. C'è poi un altro fronte che registra crescente instabilità, anche questo lo accennavamo, ed è quello della Cisgiordania. Cosa sta succedendo in Cisgiordania e qual è il quadro attuale? Ma Amnesty International ha sempre sostenuto che all'ombra della guerra a Gaza, e dunque lontano dalla già scarsa attenzione che c'era su quanto stava accadendo nella striscia, nella Cisgiordania occupata, fosse in atto una repressione ancora più intensa del solito. Del resto, le organizzazioni che hanno il compito, anche se doloroso, di tener conto del numero dei palestinesi civili uccisi dai coloni israeliani o dall'esercito israeliano, ci dicono che il 25 sarà stato il terzo anno consecutivo in cui il numero dei morti civili palestinesi è stato superiore a quello dell'anno precedente. È evidente che si sono intensificati i raid, è aumentato il numero delle persone uccise, sono aumentati gli espropri di terra, è aumentata l'invivibilità complessiva. E questo chiama in causa un potere sempre più ampio da parte dei coloni, che sono ormai supportati a livello politico all'interno del governo di Israele, a livello militare dall'esercito di Israele, e come già abbiamo fatto notare, l'autorità palestinese fa la parte del lavoro più sporco, insomma fa un po' da servizio d'ordine della situazione in favore dell'esercito israeliano. Quindi è una situazione, questa, con un'alta probabilità di peggiorare. Dalle tue parole ci sarebbe quindi, si evincerebbe quindi una corresponsabilità o quantomeno una timida mancanza di opposizione da parte dell'autorità nazionale palestinese rispetto a quanto sta accadendo in Cisgiordania. Non c'è dubbio, ma questo gli osservatori lo hanno già detto dopo gli accordi di Oslo. Insomma, c'è un tema riguardo ai compiti che le forze di sicurezza delle autorità palestinesi sono chiamate a svolgere, che sono compiti di servizio d'ordine nel magro territorio che controllano, ma soprattutto nella parte cui Israele delega loro di fare attività di sicurezza, e la fanno dando una mano a Israele, questo non c'è dubbio. Ci sono notizie di torture, di arresti arbitrari, danni di chi palestinese contesta l'operato dell'autorità palestinese. Amro Issa è un attivista dei diritti umani che una settimana viene arrestato dalle autorità israeliane e quella dopo dalle autorità palestinesi, quindi è evidente che c'è un tema di leadership. Se cambia la leadership in Israele può persino peggiorare, se cambia la leadership a Ramallah può solo migliorare, questo è il mio giudizio. Ecco, adesso sul piano della diplomazia internazionale sembra siano in corso grandi manovre, in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha proposto addirittura di svuotare Gaza per farne una sorta di super resort sul Mediterraneo, trasferendo i palestinesi della striscia in altri paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, come l'Egitto e la Giordania. Quest'ultima si è già naturalmente dichiarata contraria. Anche l'atteggiamento di Israele non sembra sembra lasciare presagire niente di buono, di positivo, ma ci aiuti a fare chiarezza su quanto sta accadendo sul fronte diplomatico e a capire se questi processi possano in qualche modo costituire un pericolo per la tenuta della tregua in atto. Ma certo che costituiscono un pericolo. Il problema è che noi siamo abituati qui in Italia a vedere tutto attraverso la lente della satira, per cui le cose che Trump dice sembrano più così dei boatos che non delle cose pericolose. La proposta che Trump ha formulato nelle scorse settimane, cioè di evacuare la popolazione palestinese della striscia di Gaza per ricostruirla a modo suo e farne prima una sorta di Milano Marittima e poi una sorta di Lignano Sabbiadoro. Nel diritto internazionale si chiama pulizia etnica, quindi è stata fatta una proposta che è un crimine di diritto internazionale. E la preoccupazione è che poi gli stati che a parole adesso sembrano contrari, tutti abbastanza compatti, eccetera, poi hanno una tale debolezza interna per cui il motivo per cui potrebbero dire di no non è che sono contrari al fatto che i palestinesi non stiano più a Gaza, ma sono contrari al fatto che possano creare un tema di insicurezza all'interno dei loro paesi, parlo di Egitto e di Giordania, quindi non è solidarietà pro-palestinese, è paura per il proprio futuro. E sono paesi oggettivamente deboli, nel senso che mutatis mutandis, quello che Trump ha fatto rispetto al tema immigrazione, cioè di minacciare il Messico, di minacciare la Colombia, e alla fine li ha ridotti a miti consigli, facendo sì che si prendessero i migranti illegalmente espulsi dagli Stati Uniti. Perché non potrebbe farlo anche con Giordania ed Egitto? Lo stesso tipo di minacce da un punto di vista economico. Quindi c'è molta preoccupazione e dovremmo puntare a questo, a tradurre le parole di Trump in termini di diritto internazionale. Cioè la proposta che ha fatto è un crimine tra i più gravi di diritto internazionale. Si chiama trasferimento forzato di popolazioni, in questo caso 2 milioni, che ha il diritto di stare lì, in termini più colloquiali, pulizia etnica, ma stiamo parlando di persone che originariamente erano già sfollate, e quindi sfollare dei sopravvissuti alla Nakba del 48, le generazioni successive nate lì, sarebbe veramente una delle cose peggiori di questo secolo. E cosa sta facendo invece Israele? Israele ha, dalle parole del primo ministro Netanyahu, quando è stato, mi pare 10 giorni fa, 2 settimane fa, a Washington, e nei giorni successivi con lui altri esponenti del governo israeliano, hanno detto che quelle di Trump sono finalmente idee innovative, originali. Quindi dal punto di vista di Israele è evidente che non avere come vicino di casa non tanto Hamas, questa è la narrazione ufficiale, non avere i palestinesi di Gaza, questa è la realtà. Lo vedono come un sogno e hanno trovato uno che, in mancanza storica dell'attore terzo imparziale, che è sempre mancato in questa vicenda, hanno trovato uno che è ancora più palesemente dalla parte loro. Quindi Israele è contento, sta aspettando che ci sia qualche passo falso per ricominciare a bombardare su Gaza, e nel frattempo continua la repressione in Cisgiordania. Il 4 febbraio, Amnesty International Italia ha presentato un rapporto sul, cito, genocidio di Israele contro i palestinesi di Gaza. Il titolo è già di per sé eloquente, ma ci aiuti a capire più nello specifico quali evidenze raccoglie il rapporto e quale scenario viene ricostruito. Tanto il riferimento è un riferimento non alla storia, non a numeri, a confronti tra numeri, ma è un riferimento, come tipico di Amnesty, al diritto internazionale, cioè alla Convenzione del 1948, che punisce il crimine di genocidio e stabilisce anche delle modalità per prevenirlo. E sulla base di questa convenzione, che descrive 5 atti di genocidio, Amnesty International, dopo 9 mesi di ricerche, ha concluso che 3 di questi 5 atti sono stati commessi da Israele nella striscia di Gaza occupata, cioè uccisioni di membri di un gruppo protetto, inflizione di danni fisici e mentali gravi al gruppo protetto e condizioni di vita imposte deliberatamente per distruggere il gruppo protetto. Il tutto con un intento genocida, che è quello che richiede la convenzione, cioè di provare che ci sia un intento genocida, e questo l'abbiamo riscontrato in quello che altri hanno chiamato un genocidio indiretto o un genocidio confesso, cioè dichiarazioni di una pletora di funzionari e rappresentanti civili e militari israeliani che hanno, con il loro linguaggio di odio, deumanizzante, prodotto una narrazione che è una narrazione che non può che essere definita genocida. Benissimo, grazie Riccardo Nuri, grazie davvero per il tuo prezioso contributo. Grazie E noi ci risentiamo come ogni settimana il prossimo sabato su FM, online o app, l'emittente la conoscete già, è Radio Città Fucico.